Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. C'è una marea nelle cose degli uomini che, colta al flusso, porta alla fortuna. Lasciata, tutto il viaggio della vita si incaglia su fondali di miserie. Noi ci troviamo appunto a bordeggiare in questo mare aperto. Sta a noi saper seguire la corrente in un momento che ci è favorevole o rassegnarci a perdere la partita. Giulio Cesare di William Shakespeare, atto quarto, scena seconda. Bruto sintetizza con un'immagine bellissima la marea che arriva e se ne va, l'occasione fortunata che capita una volta nella vita, lambendo la nostra esistenza per pochi istanti. Sta a noi saperla cogliere o meno, sta a noi cavalcare l'onda favorevole oppure farci rigettare indietro, arenandoci nella nostra stessa rassegnazione. Si sa, Shakespeare è in grado di esprimere con la massima poeticità concetti concreti che spesso ritroviamo anche nel vivere quotidiano di oggi. Il discorso di Bruto si potrebbe considerare tranquillamente una lezione di vita per i più giovani, un insegnamento su come corteggiare la ragazza dei sogni, ma anche l'inizio di un modernissimo corso di marketing avanzato. Saper cogliere l'attimo, sfruttare un determinato evento a proprio favore, ma soprattutto saper riconoscere le potenzialità di un fatto apparentemente qualsiasi. Ecco cosa significa avere capacità imprenditoriale ed ecco cosa sta alla base di molte imprese fortunate che entrano nella storia per la loro particolarità e per la loro portata. È una di queste vicende che vogliamo raccontarvi oggi, una di quelle storie che ha per protagonisti uomini unici, capaci di cogliere quel guizzo del destino e di essere artefici di mutamenti radicali nelle loro e nelle nostre vite. Tutto ha inizio con un ordine che arriva a un rappresentante di elettrodomestici. È il 1955. Egregio signore, le richiediamo un numero 8 frullatori multimixer Prince a 5 erogatori. La preghiamo di spedire la merce al più presto direttamente al nostro ristorante. Effettueremo il pagamento alla consegna. Cordiali saluti. Il destinatario di questa lettera rimane sinceramente sorpreso e rilegge più volte l'ordine. Il frullatore multimixer Prince a 5 erogatori è soprannominato The Big One. È il più grande degli apparecchi di cui è rappresentante. Fin da quando ha conosciuto Earl Prince, l'inventore, nel 1939 e ha preso l'esclusiva di questi frullatori, ne ha venduti parecchi, certo, ma mai 8 tutti insieme. I cosiddetti milkshake, frullati di latte con frutta, vanno per la maggiore negli anni 50 in tutta l'America, questo è vero, ma chi mai può avere bisogno di servirne 40 alla volta? Il nostro rappresentante non è un semplice venditore di frullatori, è molto di più. È un uomo che sa valutare l'occasione fortunata, sa fiutare il momento d'oro che arriva. Per dirla con Shakespeare, sa cogliere il flusso della marea. È uno che ha fatto mille lavori nella sua vita, ha vissuto mille esperienze e ha imparato a seguire il suo fiuto. Per questo, mentre è seduto alla scrivania del suo ufficio di Chicago, gira e rigira tra le mani la lettera che gli è appena arrivata da San Bernardino, in California. Sulla busta il suo nome è scritto a mano. Raymond Albert Croc. Raymond Albert Croc. Lui è un uomo dalle decisioni rapide, non sa stare con le mani in mano. Quando gli nasce un pensiero, deve poter verificare subito, analizzare, capire. E questa cosa degli 8 multimixer proprio non gli torna. Ecco perché decide di andare a vedere di persona e prenota un volo per la California. Mentre in viaggio, comodamente seduto nel suo posto vicino all'oblò e vede il suo paese, la grande America, scorrergli sotto gli occhi, pensa a quante volte nella sua vita ha già percorso in lungo e in largo le sue strade, fin da quando era giovanissimo. Anche se era piccolino, forse 6 o 7 anni, Raymond, che tutti chiamano Ray, ricorda molto bene quel pomeriggio in cui il padre Louis decide di portarlo da un indovino. Aveva sentito parlare molto bene di quel tizio, che pareva fosse in grado di predire il futuro professionale dei giovani toccando loro la testa. A pensarci bene, è una stranezza. Ma il padre di Ray, che è di origine cieca, è un personaggio particolare, un uomo anticonvenzionale e queste cose le fa. La casa dell'indovino è esattamente come uno potrebbe aspettarsi che sia. Buia, con grandi tappeti che ricoprono il pavimento e arazzi alle pareti, un tavolino rotondo con una palla di cristallo al centro. Lui poi è la tipica rappresentazione del mago e sta per fare la sua predizione al piccolo cliente. Il piccolo Ray Kroc, futuro rappresentante di frullatori, è seduto nello studio di un indovino. Suo padre l'ha portato da questo tizio, famoso in tutta Chicago, perché è in grado di predire la futura professione dei bambini. Il mago pone le mani sul capo del piccolo Ray ed emette la sua sentenza. È una predizione molto chiara. Questo bambino lavorerà sicuramente nel campo della ristorazione. Posso aggiungere che sarà un innovatore. Difficile dire se questa predizione possa influenzare o meno le scelte di Ray Kroc. Sicuramente l'ambiente dove vive è molto stimolante. Il sobborgo di Chicago, Oak Park, è un posto davvero speciale. Ci abita Edgar Rice Burroughs, l'inventore di Tarzan, che pubblica il suo primo racconto quando Ray ha 10 anni. Ma non solo. Nella sua stessa scuola, la Oak Park and River Forest High School, c'è un allievo destinato a diventare un grandissimo letterato, Ernest Hemingway, premio Nobel per la letteratura nel 1954 e autore de Il vecchio e il mare. Potrei avere ancora un po' di fortuna. Vorrei comprarne una porzione. Se ci fosse un posto dove la vendono. Con che cosa potrei comprarla? Una fiocina perduta, un coltello spezzato, due mani ferite. Può darsi. Non devo pensare a queste sciocchezze. La fortuna è una cosa che assume molte forme. Chi può riconoscerle? Già, la fortuna. Ray, anche se ancora piccolo, è convinto che ognuno se la costruisca con le sue mani. Quando è alle elementari, come molti bambini della zona, vende limonata fatta da lui in un improvvisato banchetto davanti a casa sua. Ma a differenza degli altri, il suo senso innato degli affari fa già capolino. I cartelli «Tre bicchieri al prezzo di due» e «Ghiaccio a volontà» attirano una moltitudine di clienti e fanno fallire i suoi concorrenti. Quando è adolescente, si rende conto che la scuola non fa proprio per lui e così va a lavorare nella drogheria di suo zio. È qui che la sua visione del mondo prende forma. Una moltitudine infinita di persone alle quali vendere qualcosa. Nel frattempo scoppia la Prima Guerra Mondiale e Ray decide di diventare autista di ambulanze per la Croce Rossa, che fa una campagna di reclutamento molto efficace. Nel suo corso di addestramento in Francia, Ray conosce un ragazzo che gli sta subito molto simpatico e con il quale stringe un'amicizia che durerà tutta la vita. Quel ragazzo si chiama Walt Disney. È lui stesso a ricordare quel periodo. Eravamo troppo giovani a quel tempo per fare i soldati. Così un amico mi disse: ho trovato un modo per servire lo stesso la patria. La Croce Rossa cerca volontari. Fu lì che conobbi Ray Kroc. Mai mi sarei immaginato che molti anni dopo avremmo fatto affari insieme. Il dopoguerra è un periodo di ripresa che molti vedono come l'opportunità per risollevare il paese e anche se stessi. E con questo spirito, con la voglia di fare tipica dell'età giovanile e della mentalità imprenditoriale, con il suo carattere aperto e gioviale, che Ray va a fare un colloquio in qualità di venditore alla Lily Tulip Cup, una società che sta nascendo e che fabbrica bicchieri di carta e altri articoli usa e getta. Si tratta di un business nascente, siamo negli anni 20. Nessuno usa ancora bicchieri, piatti o posate di carta e plastica. Oggi per noi si tratta di oggetti di uso comune, ma per quei tempi è un'attività pionieristica. Come ricorda Jody Robinson della Solo Cup, il nome odierno della Lily Tulip Cup. Oggi noi presentiamo un bicchiere di carta che mantiene il freddo come nessun altro prodotto sul mercato. Siamo i fornitori di grandi aziende di caffè per le quali produciamo bicchieri di carta autoscaldanti. Si tratta di prodotti avveniristici se comparati con quanto si produceva negli anni 20, quando è nata la società. Eppure per quei tempi si trattava di un'attività quasi inconcepibile. Un venditore della Lily Tulip ha non pochi ostacoli da superare. Non solo l'azienda è nuova e deve farsi conoscere, ma per giunta vende oggetti che per il momento non hanno alcun mercato. Se a questo si aggiunge che Ray Kroc ha poco più di 20 anni e nessuna esperienza, parrebbe un'impresa disperata per lui farsi assumere ed avere qualche speranza di successo. Ma bisogna fare i conti con lo stile Kroc. Dopo un breve training alla Lily Tulip, Ray Kroc acquista una tale conoscenza del prodotto e delle esigenze del mercato da intervenire addirittura nella produzione. Consiglia infatti all'ufficio ricerche di valutare una modifica ai bicchieri di carta. Si rende conto che spesso non vengono apprezzati perché poco resistenti. Se il bicchiere si piega tra le mani, crea disagio e può fuoriuscire del liquido. Non va bene. Bisogna impiegare un cartone più rigido, che dia l'impressione al consumatore di utilizzare un contenitore solido. Insomma, dobbiamo dare tutti i vantaggi del vetro e tutti i vantaggi di un oggetto che si butta via dopo l'uso, senza doverlo lavare, asciugare e riporre. Non c'è niente da fare. Ray è proprio in gamba. Non solo è un venditore nato, ha anche delle idee brillanti. Il suo bicchiere di cartone ha un successo strepitoso. Gli danno anche un nome: One in a Million, uno su un milione. Sembra incredibile, ma questo semplice contenitore trasforma un mercato stagnante in un business milionario. E questo naturalmente fa lievitare le sue quotazioni all'interno della società. Nel giro di poco tempo, la dirigenza nomina Ray Kroc capo delle vendite di tutto il Midwest. Sono ben 15 anni che Ray lavora alla Lily Tulip Cup. È decisamente soddisfatto, gli affari vanno bene, lui ha fatto una brillante carriera. Un rammarico però ce l'ha, non ha un'impresa sua. Sa perfettamente quali sono le sue potenzialità e un po' gli spiace di lavorare sempre per gli altri. Ma le cose stanno per cambiare. Ray ha un fantastico rapporto con i suoi clienti, si fidano di lui. Non è uno che cerca di rifilargli a tutti i costi i suoi prodotti e anzi con lui hanno sempre fatto buoni affari. Ecco perché Earl Prince, suo cliente da anni, lo chiama nel suo ufficio. Ha una sorpresa per lui. Ray, devi assolutamente vedere una cosa. Sono sicuro che il mio multimixer sia un oggetto portentoso. Prince mostra a Kroc la sua invenzione. Un'apparecchiatura incredibile. Un frullatore molto particolare che si chiama multimixer. Ray sta assistendo alla performance del frullatore e rimane impressionato. È velocissimo e avendo ben 5 erogatori consente di servire altrettanti milkshake allo stesso tempo. Kroc ne è conquistato e ottiene da Prince l'esclusiva per la vendita. È più che certo che questo apparecchio andrà a ruba e gli permetterà di avviare una propria attività. Non può saperlo, ma il multimixer stravolgerà completamente la sua vita. Ray Kroc inizia la sua attività in proprio. Certo, il momento non è dei più favorevoli. È il 1937 e gli Stati Uniti stanno vivendo la loro peggior crisi economica, iniziata nel 1929 con il crollo di Wall Street. Sono passati 8 anni, ma la situazione economica del paese è sempre molto grave. La paura di investire e poi non poter fronteggiare gli impegni presi rende gli imprenditori molto guardinghi. Ma Ray Kroc è determinato e il multimixer è decisamente un buon prodotto. Piano piano la sua attività decolla e negli anni si crea una buona rete di clienti. Le richieste arrivano da tutto il paese. L'America è una nazione grande e Ray la attraversa in lungo e in largo. La moda dei frullati a base di latte, i milkshake, prende decisamente piede nella sua forma più moderna. In effetti, il milkshake nasce addirittura nell'Ottocento, ma è una specie di eggnog, una bevanda altamente calorica e alcolica a base di uova e whisky e viene frullata a mano. Bisogna attendere gli anni 30 perché si inizi a parlare di frullato di latte a base di frutta e cioccolata, vaniglia e panna. Questo perché la sua evoluzione va di pari passo con lo sviluppo dei piccoli elettrodomestici. Prima lo sbattitore a mano, poi quello elettrico, infine il frullatore. This apple honey shake is a non-alcoholic drink that's great for the kids and really easy to make. In a KitchenAid blender, combine 1 quart of chilled apple cider or juice. Il frullatore è forse uno dei primi elettrodomestici che entra nelle case di tutti. Le casalinghe americane ne fanno largo uso perché si sa, il latte fa bene. Ci vuole la genialità di Earl Prince per creare un elettrodomestico che si rivolge espressamente ai ristoratori, permettendo loro di realizzare numerosi frullati contemporaneamente e servire insieme parecchi avventori. È l'era del multimixer, che grazie alla capacità imprenditoriale di Ray Kroc conquista un incredibile successo. Di solito Ray accorpa gli ordini per città in modo da ottimizzare ogni viaggio per vendere almeno 2 o 3 frullatori. Ma questa volta, mentre si trova sull'aereo verso la California, ha in tasca un ordine ben diverso, addirittura 8 multimixer. Non gli è mai capitato in tanti anni di lavoro. È sicuro che il committente sia una catena di ristoranti, ma è proprio curioso di vederli. Sente che deve conoscere queste persone. Il suo fiuto non lo ha mai tradito. Ecco perché ora è su quell'aereo. Destini incrociati. Ray Kroc sta volando su un aereo diretto in California. È un rappresentante di frullatori di Chicago e sono anni che percorre in lungo e in largo il paese vendendo i suoi strepitosi multimixer. Si tratta di un'invenzione favolosa che risale addirittura al 1936, anno in cui Earl Prince, imprenditore della ristorazione, si fa venire l'idea brillante di realizzare un frullatore a 5 erogatori, una specie di Ferrari del milkshake. Ray, che ha fatto 1000 lavori nella sua vita e ha un'anima imprenditoriale fin da ragazzino, comprende le potenzialità di vendita del multimixer e ne prende l'esclusiva. Sono 15 anni che riceve ordini da tutti i ristoranti e le tavole calde del paese, ma mai ha ricevuto un ordine pari a quello che tiene in tasca in quel momento. Un ristoratore di San Bernardino, in California, gli ha richiesto ben 8 frullatori, un numero davvero inusuale, tanto che lui ha deciso di consegnarglieli di persona per rendersi conto della portata dei suoi affari. Deve trattarsi sicuramente di una catena di ristoranti per avere bisogno di così tanti multimixer. Ma quando arriva a San Bernardino, lo attende una sorpresa. L'indirizzo a cui consegnare gli 8 multimixer corrisponde a un incrocio tra la 14ª e la E Street di San Bernardino. E quando Ray Kroc arriva, si trova davanti uno spettacolo assolutamente mai visto. Una strana costruzione ottagonale, completamente realizzata con pareti di vetro trasparente. Un'enorme M dorata composta da 2 archi giganteschi crea una sorta di patio dove è posta una cassa davanti alla quale una folla immensa si trova in coda. Ray si ferma allibito. È uno spettacolo davvero insolito. La coda si smaltisce velocemente, ma al tempo stesso altre persone arrivano, quindi non c'è mai un momento di calma. Gli avventori ordinano da mangiare, attendono lì in piedi e dopo pochi istanti se ne vanno con la loro ordinazione. Ma com'è possibile? Kroc non riesce a credere ai propri occhi. È impossibile che si possa fornire un pasto, per quanto semplice, in un tempo così veloce. Avvicinandosi, il rappresentante di frullatori riesce a vedere l'interno dell'ottagono. In una situazione di pulizia totale, sembra quasi un ospedale invece di una cucina, un gruppo di uomini vestiti con uniformi bianche e un cappellino dello stesso colore in testa servono hamburger, patatine fritte, torte di mele e frullati. Solo questi piatti, ma a una velocità spaventosa. Non avevo mai visto lavorare in quella maniera. Sembrava una catena di montaggio. C'era quello che cuoceva gli hamburger, poi li passava ad un altro che intanto aveva aperto il pane e lo aveva spalmato di senape e di ketchup. Un altro preparava frullati con uno dei miei multimixer a tutto andare, ma perdeva tempo tra uno e l'altro. Ecco perché ne avevano ordinati tanti. Capii subito che qualcosa di incredibile si stava verificando in quel chiosco. Kroc osserva la scena che ha davanti agli occhi. Le pietanze vengono servite in piatti di carta, composate di plastica, e anche per le bibite si impiegano bicchieri usa e getta. Grandi contenitori per la spazzatura trovano posto un po' ovunque, e la gente, una volta finito di mangiare seduta sugli sgabelli intorno all'ottagono, getta tutto da sola. Se si calcola che siamo nel 1954, è un meccanismo semplicemente geniale, non ci sono dubbi. Chicken, have some more pie. Il rappresentante di frullatori di Chicago, Ray Kroc, si trova a San Bernardino, vicino a Los Angeles. Sta guardando un fenomeno davvero unico. Un semplicissimo chiosco di hamburger e patatine fritte che si è inventato un meccanismo tutto speciale e riesce a servire un pasto completo in meno di 2 minuti. Ma chi ha potuto inventare tutto questo? Ray si avvicina al chiosco e chiede a uno degli uomini vestiti di bianco che sta preparando con estrema cura un panino se è possibile parlare con il proprietario. L'uomo gli risponde amabilmente che è lui il proprietario, lui e suo fratello. I loro nomi? Richard e Maurice McDonald. Richard e Maurice McDonald. Ray Kroc si trova davanti due uomini più o meno sui 50. Sono coetanei, sono loro che gli hanno richiesto gli 8 frullatori. Il loro chiosco ha un successo strepitoso. La fila di avventori non si esaurisce mai. Che sia colazione, pranzo o cena, ma anche per uno spuntino veloce, chi si trova di passaggio o chi abita e lavora lì non perde occasione per fare una visitina veloce. Ray è affascinato dall'invenzione dei due fratelli e si fa raccontare la loro storia che inizia molti anni prima. Originari di Manchester, nel New Hampshire, i due fratelli Richard e Maurice McDonald si fanno chiamare Dick e Mac. Finito il liceo, i due, che vanno molto d'accordo, decidono di trasferirsi in California. È il 1930 e loro sono attratti dalla nascente industria cinematografica, ma poi trovano lavoro come operai di palcoscenico in un teatro. Sono volenterosi, grandi lavoratori, e presto risparmiano abbastanza da riuscire ad affittare un teatro tutto loro a Glendora, vicino a Los Angeles. Dopo 4 anni però, non essendo riusciti a far decollare gli affari, decidono di rivolgersi a un settore più redditizio, quello della ristorazione. Sono molto ambiziosi. Ecco cosa racconta Dick molti anni dopo in una intervista. Dissi a mio fratello, ho deciso, sarò milionario entro i 50 anni. E lui rispose, ora quanti soldi hai? $8.50. Lui rise e mi disse, Richard, beh, ne devi fare di strada. I fratelli aprono prima un chiosco di hot dog a Pasadena, ma dopo breve lo chiudono per spostarsi a San Bernardino, in uno spazio più grande. In tutta la California stanno fiorendo i drive-in, come dice Jeffrey Tennyson nel suo libro Hamburger Heaven. Ricordo che andavo al drive-in da piccolo. Era un vero divertimento. Si stava seduti in macchina e la cameriera ti portava da mangiare su un vassoio. Per un bambino era un'esperienza magica. Quando ho deciso di scrivere il mio libro mi sono documentato e ho scoperto che la cultura del drive-in si è evoluta in maniera grandiosa e in parallelo con la crescita dell'industria automobilistica. Mac e Dick McDonald trovano lo spazio adatto per il loro drive-in tra la 14ª e la E Street. Gli affari questa volta vanno a gonfie vele. Eppure i due fratelli non sono affatto contenti. Ecco cosa spiega John Love nella biografia McDonald, Behind the Arches. I fratelli volevano semplificare il lavoro. Non gli andava l'idea di quel drive-in. Non volevano attirare soprattutto quegli avventori tutti vestiti con i giubbotti di pelle. È un dato di fatto. Il drive-in attira soprattutto i giovani. Per il momento gli adulti e le famiglie con i bambini piccoli non sono clienti abituali. Il tipo di alimenti serviti, la velocità e il fatto di poter mangiare su un vassoio nella propria auto sono caratteristiche che piacciono agli adolescenti. Chi non ricorda l'allegra combriccola dei film Happy Days con Ricci, Pozzi e il mitico Fonzi? Gli adolescenti sono avventori di un certo genere che evidentemente ai fratelli McDonald non piacciono poi tanto. Loro sono due persone tranquille, non vogliono grattacapi. Ecco perché, nonostante i lauti guadagni, chiudono il drive-in e lo ristrutturano, trasformandolo in un chiosco ottagonale con una particolarità inedita, la cucina a vista. Ma soprattutto eliminano ogni complicazione e lungaggine e creano una sorta di catena di montaggio. Riescono a fornire un pasto completo nel giro di qualche manciata di secondi a un prezzo che mediamente si aggira sul 50% in meno della concorrenza. Una vera rivoluzione davanti alla quale Ray Kroc rimane letteralmente senza parole. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey. Destini incrociati. Nella camera di un albergo di San Bernardino, in California, un uomo non riesce a dormire. È stanco. Ha viaggiato da Chicago fin lì e ha passato il resto della giornata a parlare di lavoro, ma il suo cervello è troppo attivo per consentirgli di riposare. È Ray Kroc, rappresentante dei frullatori per ristoranti Multimixer. La ragione del suo viaggio è proprio legata a questi frullatori. Si tratta di apparecchiature altamente professionali. Ogni frullatore ha ben 5 erogatori e può preparare molti milkshake al minuto. Eppure un semplice chiosco di San Bernardino gliene ha ordinati la bellezza di 8. Ray ha sempre avuto fiuto per gli affari e segue il suo istinto che gli dice di portare di persona i frullatori. Vuole scoprire cosa si nasconda dietro quell'ordine. Anche questa volta il suo istinto non lo tradisce. I fratelli Mac e Dick McDonald, proprietari del chiosco ottagonale all'incrocio tra la 14ª e la E Street di San Bernardino, sono due persone incredibili. Hanno inventato un sistema di ristorazione totalmente nuovo, che loro chiamano 3S, che sta per Speedy Service System. Eliminando tavolini e sedie, camerieri e suppellettili, i due servono con una rapidità impressionante hamburger, patatine fritte, torta di mele e milkshake, utilizzando bicchieri e piatti usa e getta. Le persone consumano sedute sugli sgabelli che circondano il chiosco e la fila alla cassa è sempre piuttosto lunga. Kroc comprende il motivo per cui i due fratelli gli hanno ordinato ben 8 frullatori. Mentre li osserva lavorare, mentre guarda con quanta competenza, pulizia e metodo lavorano, un pensiero inizia a prendere forma nella sua testa. Creare un franchising con il nome McDonald's. È lui stesso a raccontarlo anni e anni dopo. Mi piaceva il suono, perché è genuino. Non mi piacciono questi nomi che sono dei giochini. Burger qua, burger là. McDonald's suona bene, eh? È un po' come Tiffany's. E noi siamo il Tiffany dell'hamburger. Mentre è nella sua camera d'albergo e non riesce a dormire, Ray Kroc pensa a quello che gli ha predetto da piccolo l'indovino, che avrebbe lavorato nella ristorazione e che sarebbe stato un innovatore. Caspita se ci aveva azzeccato quel mago. Il giorno dopo la sua proposta ai fratelli McDonald è formulata in maniera tale da non poter essere rifiutata. In fondo loro non rischiano nulla, sarà lui ad occuparsi di tutto. L'idea è quella di riprodurre in tutto e per tutto il chiosco di San Bernardino in altri luoghi e verificare se anche lì il successo è lo stesso. Kroc sta già facendo i conti su quanto può guadagnare vendendo 8 frullatori a ciascun chiosco. Non si immagina ancora quello che sta per accadere. Dick e Mac sono due persone molto semplici, non hanno tanti grilli per la testa. Questo Ray gli piace. È uno che parla chiaro, una persona che arriva da loro con delle proposte interessanti, idee concrete, cifre chiare. Loro non hanno interesse ad aumentare il proprio lavoro. Stanno già dietro il bancone del chiosco dalla mattina alla sera. Però l'idea di replicare il loro modo di fare ristorazione così diverso a loro non dispiace affatto. Che il nome McDonald possa essere riconosciuto anche in altre cittadine del paese è una bella cosa, li inorgoglisce. Ecco perché accettano la proposta di Ray Kroc. È il 1955 e nasce la catena dei fast food McDonald's. Introducing the world's newest, silliest and hamburger-eatingest clown, Ronald McDonald. Il nostro rappresentante di frullatori ha una grande esperienza in fatto di ristorazione. Sono decenni che gira il paese in lungo e in largo vendendo prima i bicchieri di carta della Lily Tulip e poi i multimixer. Ne ha visti di ristoranti, chioschi di hamburger, gelaterie, snack bar e chi più ne ha più ne metta. Oramai lo si può definire un connoisseur della cucina, uno che è decisamente in grado di capire se una determinata cosa piacerà o meno ai clienti. E lo stile dei fratelli McDonald non può non piacere. Il suo franchising sarà un successo, ne è certo. Ray Kroc ha ottenuto dai fratelli McDonald il consenso per realizzare un franchising del loro modello di chiosco di San Bernardino. Per cominciare, forte della sua grande esperienza, Ray riproduce fedelmente un altro chiosco identico a Des Plaines, Illinois, appena fuori Chicago, vicino a casa sua. Fa realizzare la stessa M gigante, due archi dorati riconoscibili anche da lontano, dall'architetto di Mac e Dick, Stanley Clark Meston. Propone gli stessi prezzi bassi, stesso menù, stessa rapidità di servizio e pulizia. Quel chiosco diventa la sua vita. Lo controlla come fa una neomamma col suo bambino. Verifica tutte le operazioni di cucina, fa gli acquisti personalmente, sceglie con cura i dipendenti. L'inaugurazione è il 15 aprile 1955. Ray si guarda intorno soddisfatto. Finalmente ha un'impresa tutta sua. Grazie all'infallibile intuito che lo accompagna da sempre e all'incontro con i fratelli McDonald, forse la sua vita sta per cambiare. Ha 53 anni, ma che importa? Quello che conta è che a fine maggio il suo chiosco è letteralmente assalito dalla gente e dà un profitto insperato. A questo punto Ray ha avuto la risposta che cercava. Il metodo funziona e si può replicare su vasta scala, ma per farlo serve rigore. Lui ha sempre ammirato Henry Ford, che 40 anni prima aveva realizzato la produzione di massa delle sue automobili grazie a un sistema infallibile. La produzione in catena di montaggio prevede di sposare la precisione delle varie componenti ad un sistema di assemblaggio perfettamente organizzato. Vanno stabiliti precisi standard da rispettare in maniera rigorosa attraverso un training degli operatori che elimini qualsiasi spreco di materie prime e di tempo. Ray decide di applicare lo stesso rigore alla sua catena di montaggio. Torna quindi a San Bernardino da Mac e Dick McDonald. Il loro incontro è come sempre molto proficuo. Stanno stendendo una sorta di manuale del perfetto hamburger. La percentuale di grassi, che non deve superare il 19%. Il peso, 1.6 oz. Il diametro, 3,875 pollici. Cipolle, 0.25 oz. Quando Croc riprende l'aereo per Chicago, ha ideato con i suoi soci un'idea ancora più brillante. Affitta un capannone nei sobborghi della città, dove crea un vero e proprio laboratorio per studiare come realizzare la perfetta patatina fritta. Vengono valutati tutti gli elementi: l'olio, la temperatura a cui friggere, la qualità di patate da impiegare, la misura in cui tagliarle e il tempo di cottura. Croc non vuole lasciare nulla al caso, ha più di un motivo per farlo. È convinto di dover aiutare ogni singolo operatore con tutte le sue forze a ottenere il meglio dal suo lavoro. Ogni singolo successo gli assicura la riuscita del progetto. Ma poi ha un altro motivo. Il suo intento è esportare il modello anche all'estero. La sua intuizione è grandiosa. Chiunque entri in un fast food McDonald's deve trovarsi di fronte esattamente le stesse tipologie di cibi. Che si trovi a San Bernardino, a Chicago, a Roma, Parigi o Tokyo, deve poter consumare esattamente lo stesso hamburger, le stesse patatine fritte e la stessa torta di mele. A questo scopo, mentre il progetto di franchising prende piede in tutto il paese, per poi espandersi anche all'estero, Ray Kroc fonda con Fred Thurman, suo primo cuoco, la Hamburger University, che diventa il centro globale di eccellenza per la formazione di manager e operatori. Ecco il benvenuto agli studenti di Pat Harris, Global Chief della McDonald's Corporation. Il resto fa parte della storia. Welcome everyone. Thank you for being here at Hamburger University. And I know Diana will give you a... I numeri della McDonald's Corporation di oggi sono impressionanti. I suoi fast food sono presenti in tutto il mondo, con oltre 32.000 punti di vendita e più di 400.000 dipendenti. La società è diventata il simbolo della globalizzazione, alcune volte chiamata addirittura McDonaldizzazione. La Walt Disney Company ha instaurato un accordo di collaborazione durato un decennio, riavvicinando negli affari i due vecchi amici Ray e Walt. Il settimanale londinese The Economist ha inventato l'indice Big Mac. La comparazione dei prezzi di questo panino viene usata per calcolare in maniera informale il potere di acquisto della moneta nei vari paesi. Non mancano naturalmente i detrattori. Morgan Spurlock, regista e produttore indipendente statunitense, ha realizzato un film documentario intitolato Super Size Me, dove si sottopone a un esperimento monitorato 24 ore su 24. Per un intero mese si è nutrito solo ed esclusivamente con cibo venduto da McDonald's. Questo per verificare gli effetti sul suo fisico. Al termine dell'esperimento, Spurlock ha preso 11 kg e ha parecchi effetti collaterali, ricavandone la convinzione che forse non è il caso di sottoporsi a una dieta simile. In ogni caso, il film riceve la nomination per il miglior documentario agli Oscar 2005. Una serie di vicende impressionanti, soprattutto se si pensa che tutto è partito da un semplice ordine di 8 frullatori. To see me through all my sins. trying to walk through.